22. Due giorni dopo, Peter trasportava sacchi di farina al punto di raccolta. Il bosco era una distesa di botti e otri, barche e uomini, moschetti e remi, sacchi di pietre focaie, corni da polvere, casse di chiodi, ferramenta. L'imbarco non era ancora iniziato e l'atmosfera era gravida di tensione. Peter poggiò il sacco per terra e si fermò a riprendere fiato. I portatori lo superarono silenziosi, ciascuno concentrato sulla propria fatica. Le ultime barche sarebbero tornate in acqua entro mezzogiorno. Zio Joseph era già sceso al Wood Creek per controllare che scorresse di nuovo. Aveva portato con sé solo la Croix. Le braccia dei guerrieri servivano al trasporto. Peter si asciugò il sudore e osservò la radura che si apriva tra le querce. Era puntellata di pietre bianche che affioravano dall'erba e dal pantano. Vide che i portatori si facevano il segno della croce e ricordò una delle storie che gli raccontava suo padre, quella dei 500 battaglieri del colonnello Bradstreet, morti di fatica durante il trasbordo in un giorno d'estate del 1758. Dopo l'ecatombe, la corona aveva stanziato 60.000 sterline perché John Stanwix costruisse il forte in appoggio a chi percorreva il sentiero. Per un'oscura ragione, da quando Peter era sceso dal mulino, l'inquietudine non l'aveva più abbandonato. A questo si aggiunse il pensiero che dovunque, sotto i suoi piedi, dormivano i morti. Raccolse il sacco e desiderò essere molto più leggero. Davanti al fiume, ancora in secca, non dissero nulla. Affrontarono la salita, silenziosi come spettri. L'aria era afosa, pesante, le camicie impregnate di sudore. In cima al sentiero il mulino apparve nel pieno sole di mezzogiorno. Non si avvicinarono subito, attesero a lungo, chini a scrutare dintorni. Joseph passò in rassegna un dettaglio alla volta. L'acqua non scrosciava più. La Croix saltò sull'altra sponda. Salirono fino alla costruzione con cautela, i fucili spianati. Il bottaccio era colmo d'acqua, ma sulla chiusa erano accatastati alberi tagliati di fresco. Attraverso il legname filtravano rivoli d'acqua torbida che si perdevano a valle. Joseph aveva già visto il sangue macchiare i fiumi. Si avvicinò. L'olandese era a faccia sotto nel bottaccio. L'avevano scalpato. La Croix sbucò dall'altra parte. Lanciò un'occhiata in basso e si segnò. Presero a spostare i tronchi in preda a un'ansia silenziosa. Joseph si sentiva esposto, un bersaglio facile, mentre faticava per liberare la chiusa. Si formò una cascatella che si tuffò nell'alveo asciutto. Ci sarebbero volute ore perché il livello del torrente si alzasse abbastanza. Avrebbero dovuto pernottare laggiù, tra serpenti e zanzare, con una banda di assassini nei dintorni. Finito il lavoro non si voltarono. Avrebbero dovuto tirare fuori il corpo e seppellirlo da cristiano, ma l'istinto li spinse a raccogliere i fucili e scendere a passo di corsa. I due guerrieri in testa al gruppo si chinarono sulle impronte nel fango. Gli altri restarono sul posto, poi senza fiatare si disposero a raggiera lungo la sponda del fiume. Joseph si avvicinò alla Croix e Roy a Tacheriglio, accucciati su una roccia muschiosa, il naso puntato a terra come segugi. «Sono sbarcati qui!» E si sono inoltrati nel bosco. La Croix indicò la direzione di marcia. Almeno quattro bianchi, una guida indiana, si spostano veloci. La foresta era fitta e silenziosa, solo un frullare d'ali. Gli occhi di tutti erano puntati nel verde. Joseph aveva parlato con Guy Johnson e gli altri del dipartimento. Se qualcuno li seguiva, bisognava scoprire di chi si trattava. Gli avevano affidato l'incarico di radunare guerrieri migliori e battere le rive in cerca di tracce. Roteò una mano sulla testa. Il gruppo si mosse, evitando i tratti scoperti. Erano 15, ma davanti a buoni tiratori appostati poteva non essere sufficiente. Ogni tanto Joseph controllava che il nipote lo seguisse da vicino. Peter stava attaccato ai suoi passi, come da consegna. Il ragazzo fremeva. La compagnia dei guerrieri lo inebriava. Al suo fianco Walter, il figlio del capitano Butler, che a detta del padre era un ottimo tiratore. Percorsero circa mezzo miglio. Roy a Tacheriglio e la Croix si acquattarono dietro a un masso, le schiene attraversate dalla tracolla dei fucili. Gli altri si ripararono sotto le felci. Joseph sentiva l'odore di Peter alle spalle e intravedeva la punta del suo fucile. Gli fece segno di rimanere dove era e strisciò fino a raggiungere il macigno. Roy a Tacheriglio indicò giù, dove il terreno discendeva ripido. Erano 5. Procedevano in fila. La guida era un Delaware. Portava il vistoso cappello pezzato di Jan Horn, con le orecchie flosce sui lati. Joseph si voltò, rapido, verso i guerrieri e vide Canenonte armare il fucile. Strisciò vicino a lui e afferrò la canna dell'arma appena in tempo. Guy Johnson era stato chiaro. «Non accettate provocazioni, non fornite pretesti per attaccarci, non prima del concilio. Scoprite chi sono, quanti sono e tornate al campo». Joseph disse tutto senza parlare, ma gli uomini sotto di loro percepirono qualcosa. Si scostarono uno dall'altro e spianarono i fucili. Gli occhi del Delaware percorsero il pendio. Joseph e Canenonte rimasero immobili, ascoltando il proprio respiro. Il drappello riprese la marcia e sparì tra le fronde. Canenonte piantò gli occhi in faccia a Joseph. «Devono morire! Possono essercene altri! Gli spari li richiamerebbero!» Il giovane guerriero mise l'arma a tracolla e si preparò a seguire i bianchi. «Che vengano! Prima del tramonto ce laveremo nel loro sangue!» Oroñateca affiancò l'amico. Joseph sapeva che se avesse lasciato andare i due giovani, gli altri li avrebbero seguiti. «Non è il momento di combattere. Il giorno verrà, ma non è questo!» Canenonte tratteneva a stento la collera. «Vuoi aspettare che ci sorprendano nel sonno?» Joseph guardò di nuovo le facce scure. Roya Taquerillo sembrava propenso a dare battaglia. Peter stava in mezzo, gli occhi guizzavano da un viso all'altro. Walter Butler osservava senza espressione. Era cresciuto alla scuola del padre e non si sarebbe tirato indietro. Aspettava la decisione del gruppo. Joseph rimase fermo. Si immaginò saldo come un albero, avvinchiato alla terra con profonde radici. Scandì le parole in modo che tutti sentissero. «Niente uccisioni prima del concilio!» Oroñateca prese a camminargli intorno, a grandi passi, sibilando nelle orecchie. Joseph sentì il fiato sulla faccia. «Chi è Tayandanega per impedircelo? Non è un Sakem, non è nobile. È un capo di guerra che si rifiuta di farci combattere. Un capo inutile!» Joseph rimase impassibile. «Te l'ho già detto una volta, stai attento a come parli. Dovrei avere paura di te, solo perché hai combattuto in guerra? Io dico che è passato troppo tempo e che hai perso il coraggio». Il giovane afferrò il tomahawk. Joseph si preparò a colpirlo con il calcio del fucile, ma Oroñateca scagliò l'arma ai piedi di Lacroix. «Ronaterionte ci guidi contro i nemici, che sia lui il capo di guerra!» I sibili cessarono. I rumori della foresta ripresero il sopravvento. Tutti guardarono Lacroix, che fissava la scure piantata nel terreno. La scavalcò e fece pochi passi verso Oroñateca. Lanciò al giovane un'occhiata noncurante. «Stiamo andando al concilio. Raccogli la tua ascia. Seguiremo Tayandanega». Nessuno disse più una parola. La fila si riformò e prese la via del ritorno. Canenonte e Oroñateca per ultimi. Peter camminava come in sogno, certo di aver assistito a un evento cruciale che continuò a ripercorrere nella mente fino all'accampamento. Davanti a lui, zio Joseph e il grande diavolo percorrevano il tragitto fianco a fianco. Osservò le loro ombre saettare sottili tra gli alberi. Immaginò fossero quelle di due ragazzi che tanti anni prima avevano seguito suo padre, lungo gli stessi sentieri, come adesso lui seguiva loro. Si sentì fiero di quella compagnia. Fiero di essere un guerriero di Joseph Brent, orgoglioso di essere un Johnson.